Stiamo parlando di criminale Assad. E tu sei una stiamo testa per, di cazzo internazionale. Stiamo parlando, stiamo parlando. Stronzo che non sei altro. Ma che dici? Cosa stai parlando? Una volta facevi il giornalista anziché insultare. Ma che cosa sei? Pagato da Assad! Allora io ti denuncio. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Scusi. Dato che lei fa il processo in diretta alle persone, se fanno i contratti per emigrati, no, e non sa nemmeno da che parte vengono i soldi, allora per una persona, un genio come lei, che parla solo di culi e la gente per bene è l'Italia, allora i soldi non vanno a prendere, è meglio che glieli danno alla gente che ha fame. Ha capito, lei deve vergognarsi. Buonasera. Non ho capito, Esther, richiamami questa stronza, dai, richiamami questa vecchia maledetta. Signora, cosa hai detto? Signora veramente per bene, che ha posto un tema questa, che dobbiamo riprendere domani. Ma una che, signora richiamatemi straordinaria. Questa vecchiaccia. Ma cosa, come ti permetti di dire schifosa, così? Vecchia, signora, con tutto rispetto per i vecchi. Signora. Pronto? Signora cara, non accetti provocazioni da quel miserabile, brava. No, io non sono questa, gliela dico quel signore lì. Sì, lo so, lo so, signora. Che trasmissione può essere anche allegro e così, ma uno schifo così. Fa schifo, lo so. In più, fa schifo bruciare, ha ragione. La gente in tasca prima che sa le cose, brava, e poi fa i processi, che voglio nascondere. Ma grazie per aver chiamato. Lei ha mai squirtato in vita sua? Ma cosa vuoi dire sta roba, la signora? Ma cosa vuoi che sappia, signora? Esther! Ho un sogno, Vanna Marchi che squirta su Parenzo. Ragazzi, con noi in studio stasera un grande ospite, David Parenzo. Eccoci qui. Lo vedo in faccia quello stronzo di regista lì. Lo vedo in faccia quel cane. Quel cane che andrebbe portato a Guantanamo. A Guantanamo, quel regista lì. A Guantanamo dovrebbe andare, infame. Perché prima fa Barisoni, l'economia. No, non lo fa lui. Non lo so chi cazzo lo fa. Lo fa. Fa il telegiornale, il Punto 24. Poi viene qui a fare il Punto G. Ma che roba sei? Cane. Allora, l'ingresso di Parenzo oggi nella sede del Sole 24 Ore. Cosa è accaduto? Arrivo bel bello pulito con la mia giacchetta, dico vado al Sole 24 Ore, metto la giacca, la cravatta, le scarpe quelle buone, eccetera. Entro, dico prendiamo un caffettino al bar disegnato dal dottor Renzo Piano. Vado al bancone del bar e trovo un gay, una brasiliana negra e una rumena. E poi c'era un'italiana che spazzava, che era sotto questi tre. Salvini, ma dove cazzo sei? Questa è l'Italia! Questa è l'Italia multietnica e multirazziale! Un gay, una brasiliana nera, una rumena e l'italiana che spazzava sotto gli ordini di questi tre. Questo al Sole 24 Ore, questa grande azienda, grazie! Lo specchio del paese e dell'Italia! Ma non è così. È così. No, effettivamente era così. Lo dico io, era così. Sì. Un gay, sembra Johnny, signor Johnny. Sì. Il nome non lo diciamo. Johnny, si chiama Johnny. No, il nome non lo diciamo. Johnny è il frocio del bar del Sole 24 Ore. Sì, assolutamente. Ma sembra una barzelletta, che uno dice, no? Una brasiliana Milano, di colore. Siamo a Milano, Milano, bellissima città internazionale, la città di Salvini, la città di Matteo Salvini. Guarda cosa succede in questa grande azienda, che è lo specchio del paese, la bellezza dello specchio del paese. Speriamo che non lo chiudano questo bar, che c'è pure il caso che lo chiudano. Mi hanno detto che potrebbero chiuderlo. Costano pochissimo il caffè, peraltro, quindi questo è buono. No, non è vero, 70 centesimi. Vabbè, fuori è aumentato, prima costava 25, cazzo. Ah, sì? Sì. Beh, c'è qualche problemino, sai che. Vabbè, ragazzi, allora partiamo subito con una frase, quella del signor A.

come me ce ne sono altri 60, sì. Credo, almeno altri 50, altri 58.000 italiani. Sarebbe un paese 58 finito. Italiani. Speriamo di no. Allora, ieri non è così per ho fortuna. Ascoltato. Hai sentito che ha detto, no? Hai sentito che ha detto. Allora, devi avere lì in quella trasmissione un bastone, e spaccargli la testa poveretto, a questo idiota ogni volta che parla. Poveretto. Hai sentito allora, che cosa ha detto sull'ingresso degli immigrati? Hai sentito cosa ha detto? Viene trattato come Einaudi, l'unica trasmissione al mondo è questa in cui un imbecille che parla come Darth Vader è un malfattore. Io sento sulla mia pelle le grida e il dolore dei miei fratelli, fratelli d'Italia, senti non fratelli migranti. Senti il dolore di quell'unico neurone che lo stiamo distruggendo. Merda! Lo stiamo distruggendo. Allora, ieri sera sulla 7, in quella televisione di merda! Cosa hai detto? Io mi auguro merda. Che questi qui, guarda, ti portino via tutto. Quel porco lì, come si chiama? Ma stai zitto! Cretino! Conduce, che cazzo è? Ma cretino! Cretino, tu sei piazza pulita. Un imam, si chiamava David Piccardo. Sì, Piccardo, ha detto sì. La mia sorella, sì. Ha detto la mia connazionale, che la Santanché sì. È la strafaccia dell'ISIS, sì. L'ha detto più di 3 volte, sì, quel sì, porco sì. Che stava conducendo la trasmissione, mamma mia, come sei schifoso, cazzo in culo quell'islamico, tu sei. Per ma aver che chiamato criminale. Speriamo la che ti denuncino, guarda, ti devono denunciare ti devono. Allora aspetta un attimo, fermo Donato, voglio fare denunciare. Voglio, ma che c'entra, basta. Che ha detto una cosa basta. Giusta, aspetta, basta, denunciatelo, aspetta. Piccardo basta. Ieri, che è uno di quelli che si Anza Piccardo, si picca, si picca di essere moderato. Piccardo si picca di essere moderato. Ha detto una cosa: ha detto l'ISIS e la Santanché sono la stessa cosa. Vabbè, questo forse è un po' esagerato. No, è una puttanata. È una puttanata. Nessuno l'ha zittito. Vabbè, quello io voglio andare nei paesi arabi e voglio essere libero come un islamico si sente libero in questo paese. Questa è un'ottima idea. Che ci sta mangiando tu. Allora, questa è un'ottima idea. Vai nei paesi allora arabi. Sanno che sabato pensa medi islamici. È un'ottima idea. Fuga di cervelli. Vai. Allora, vai nei paesi islamici. Ti giuro, nessuno ti ferma. Vai nei paesi arabi. Bravo. Vai. Io non vado nei paesi dove c'è un Dio che io disconosco. Aspetta un attimo, sentiamo. In questo paese. Sentiamo sono Piccardo. Cresciuto in questo paese, Piccardo. Sono nato in questo paese. Un uomo di me. Allora, io non capisco. Allora, dimmi. Che vorrei dire le cose brutte. Senti come è nervoso. Allora, senti. Questo che tu hai a fianco a te. Sì, sì. Un domani molto lontano. Sì. La tua carissima figliola. Cosa piange? Ti domanderà, papà, ho visto delle foto tue quando eri più giovane. C'era un'Italia diversa, papà. Cosa sono tutti questi con i turbati in testa, con queste palandrane? Dove a me è possibile andare via con la minigonna? Perché quando crescono questi, è normale che se tu nell'odio ci butti l'acqua, è normale che l'odio non diventa più acqua. È normale che se dentro al latte ci butti un pizzico di limone, l'acqua va in acido. Noi stiamo andando il tuo cervello in acido. Bisogna fermare il popolo islamico, bisogna fermarlo. Hanno dominato tutte le terre, si sono prese l'Egitto, si sono prese la Turchia. Andate a vedere nella storia, erano paesi non islamici, sono cresciuti e si stanno prendendo l'Europa e quei figli di puttana, ripeto ancora, Prodi, Bersani, ma che c'entra adesso questi assassino querele su querele ormai potrebbe essere anche ucciso dall'Islam. Ma quello adesso, porco di Renzi lo sa o non lo sa e che dovrebbero fare? Lo sa o non lo sa? Guarda che aver spostato i soldi dal comparto sanità mentale. Aspetta, guarda che aveva spostato aspetta i soldi. Un secondo, Piccardo Santanché, questo lo devo far ascoltare però, Piccardo Santanché, vi prego, lo devo far ascoltare. L'ISIS, così come alcuni movimenti, per così dire, di estrema destra, razzista, si alimentino alla stessa foce, diciamo, che praticamente strumentalizzano un certo disagio. Sì, per esempio la Santanché. L'ISIS e la Santanché sono due facce della stessa medaglia. La Santanché è paragonata al terrorista islamico. Sì, perché ragione. Praticamente sono sì, sciacalli che mangiano, che mangiano insomma, del diciamo disagio che quelli dell'ISIS ammazzano, società. Insomma, sì, la Santanché non ammazza, ecco, non questo, ammazza. No, Daniela Santanché. Beh, devo dire che qualcosa ha detto il signor Formigli, ha però. Ha detto . Assolutamente, ma ovvio che ha detto. Ma tutti i figli di Donato, questo povero imbecille, Donato, dai, dimmi. Questo è un disturbato mentale. Formigli, se fosse stato disturbato, un Donato, sei un disturbato. Avrebbe detto, chieda subito scusa.